Rotte sonore. Suoni dai percorsi migranti. Beh, siamo di nuovo in diretta. Che puntata è, Costanza? L'ottava, se non sbaglio. Sì, sì. L'ottava? Non mi ricordo. Comunque, domani pomeriggio, 14:30, stiamo registrando, siete sempre sulla Radio Città del Capo, 94.7, 96.25. Dicevamo, ottava puntata, se non ci sbagliamo, nuovo ospite. Ciao, Secu. Ciao. Benvenuto. Grazie. Cosa ci fai ascoltare oggi? Io voglio ascoltare la musica. La musica di chi? Ja Rule, americano. Ok, Ja Rule con? Ja Rule con Miseris. Ja Rule con Ajanti. Ok. Shanti, what's with the new look? I love him. And if he wants me to be more street, then I'ma be more street. Wanting to get my freak on the back street in the backseat of the Yukon. What's taking so long? I'm getting anxious but patiently waiting for you to tell homie to move on. Between me and you, we can find each other flying abroad in my private G2. I ain't trying to G you, but I'm trying to see you bent over. You know how we do it. The shows bring heat to cold this night, so ferocious. Now you're street promoting, this game is potent. Cause in the bed, rule go hard like Jordan. Sweat pouring, loving the way you be moaning. Gripping the sheet, looking at me, licking at me. Cause every woman just wanna be happy. And it's crazy, but baby, I love it when I'm with you, baby. Girl, your stare, those eyes, I love it when you look at me, baby. Your lips, your smile, I those thighs, I love it when you fuck me, baby. And I can't deny, I love it when I'm with you, baby. I wanna get away, get cause away. You know like I know when there's a better day. Better you're coming, day. I'm hooked on your love and believe me. Believe and when you hold my body, I know you need me. Wait for me, baby. I've been going half crazy for your love. And I was told that the sex is better than drugs. Been getting addicted, boy, listen. Beh, avete sentito Ja Rule, non esattamente una musica tradizionale del Mali. Il Mali è piuttosto conosciuto anche in Italia da parecchi anni. Ja Rule invece è un musicista, è un rapper proprio americano. E non credevo che la musica, che l'hip hop americano si ascoltasse frequentemente anche il Mali, che è una nazione di madrelingua o comunque di lingua coloniale francese. Ja Rule, c'est un chanteur hip-hop américain. Mm-hmm. Et ça s'écoute aussi au Mali. Et on ne croyait pas qu'on s'écoutait aussi dans un pays francophone. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mm-hmm. Adesso invece qualcosa di più tipico e tradizionale, direi. Jelika Diawara. Elle chante Kamalemba. Una canzone sui giovani. Giovani, sui giovani ragazzi, sì. Poi ci racconterai che cosa pensa Jelika Diawara dei giovani ragazzi, perché le cose stanno cambiando anche in Mali. Kamalina, Kamalina, Appena ascoltato Dielika Diawara con Kamalemba, una canzone sui giovani d'oggi, si diceva una volta, eseguita al Top Étoile, che è una sorta di... raccontaci cos'è il Top Étoile. Top Étoile C'était pour toi que on dit vendredi, pour qu'il rencontre nous. Chaque vendredi. Si. Chaque vendredi, elle rencontre ensemble 15 personnes artistes. Ogni venerdì si raggruppano 15 artisti. Ogni venerdì i soliti 15 artisti, nessun venerdì escluso, si radunano a Bulkasumbugo, un quartiere di Bamako, dalle 8 a mezzanotte, dalle oppure? 8 a mezzanotte, oppure mezzanotte fino alle 2. Fino alle 2. Allora, di qua parla cette chanson? Questa chanson. Di cosa parla questa canzone? Dei giovani d'oggi. Giovani. Cosa fanno questi giovani? La jeunesse. Sì, la jeunesse. La jeunesse. Giovani come le moi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'accuser les jeunesse. Pourquoi? Les jeunesse, ils trahissent la copine. Sì. Lei accusa i giovani d'oggi perché tradiscono le proprie compagne. Cosa che avant ça s'est passé? Avant, anche actuellement. Siamo soltanto adesso. Ma toglimi una curiosità. In Mali, un uomo quante donne può sposare? Se combien de copines de femmes il peut avoir? Ci sono quattro donne e sposa un uomo. Ok, e sa se può trair? Donc. No. Hai domande? No, è sposare, non è certo. Come dire, avere amanti, è sposare, certo. è una cosa più seria. Certo. E adesso qualcosa che finalmente conosco anch'io. Homo Sangaré è famosa anche in Italia, non so se qualche ascoltatore l'abbia mai vista dal vivo, perché stava in Italia, abitato anche in Italia, comunque spesso ha frequentato... E la vite in Italia. Homo Sangaré. Quanto tempo? Io 15 anni fa. Lì a 15 anni. Tanto tempo fa. Beaucoup de temps, oui. Infatti alcune registrazioni sono state fatte, penso, in Francia, non solo in Mali. Thank you. Avete appena ascoltato Moussangaré con Moussoulou. Moussoulou, c'est en français ou bien en bambara? Moussoulou en bambara. Ah, ok, bambara. Bambara, c'est la langue officielle malien. Du Mali. Mm-hmm. Et bon, qu'est-ce que ça signifie, Moussoulou? Moussoulou en italien. Ah, Moussoulou en italien, comme les donne. Les donne. Sì, les donne. Ok. Et de quoi parle? Les donne, les femmes? Les donne. En train de saluer les donne. Però noi in Mali le donne molto stanche. Stanche. Parce qu'elles travaillent beaucoup. Sì, travaillent beaucoup. Parla della fatica, no? Delle sì. donne che lavorano ma molto in Mali. Il matrimonio. Devono stare dietro al matrimonio. Sì. Mm. Lavorano troppo. Lavorano troppo. Più degli uomini. A differenza di qua in Italia, vedi una differenza. Molta differenza in Italia, però. Come noi c'è, come non è uguale. Voi le donne lavorano sempre. Beh, prima dicevamo che molto rap del Mali è influenzato dal rap americano e beh, a questo punto non possiamo non farvi sentire un rapper maliano, Ibawan. Ibawan, sì. Che si autodefinisce, autoproclama rapper international. Sì, rapper international. Shadow, Prism, Beats. Rapper international di Mali, John Epsega for the rap umani, Sanga Oyentai Aniwari, Menga Jala, Wala Jovenga. Rapper international di Mali, John Epsega for the rap umani, Sanga Oyentai Aniwari, Menga Jala, Wala Jovenga. Nigga flow de benjugu sansogo, mali raperu au makogo, au tese ibala au kadogo, nimi se rapula muna tako ibita do nien tako ibe nyini tako hey barigani do de beneko inshallah muni ala sona ne de toko hey nuko kipe sena uyi nege igara pundi ko tala doga iga fege hey ne moko joli taka pere biti sabe ali sini rafu la tekere hey moko sima nega sanga dinema moko tese ganga sanga minena ima name wan de besampe umundi liga duwa uminena awa meka soka di ko lim national mali yonga rapper international ne debe wole ko fenomenal paske nye rapu bonde fo terminal Rapper international di Mali John Depp's a for the rapu mani Sanga oyentai aniwari Menga jala wala jo venga Rapper international di Mali John Depp's a for the rapu mani Sanga oyentai aniwari Menga jala wala jo venga Neye trofe tande sura kasro Allah ma kele sura Nekra international al saube stadi fago kmala Nebe million konti la aido ge tangana ni purumola Neye publiko kmaba al saube mobliko wasola Million beke menani name andu nyabe bogo sola Nede rapper popular au ma sega stadi fa Abe kebel jana au labo mele sugu ni kurata hey. Nere koni gara mi ten wote mali toro fefe Wanere ye mer dirtita afrik be toro fefle Klonge bana sisa, metna se game over Wole fen gara fly sisa, aven sis ni range rover Rapper international di Mali John Depp se gafo dega rapu mani Sanga oyentai aniwari Menga jala, wala jwa venga Rapper international di Mali John Depp se gafo dega rapu mani Sanga oyentai aniwari Menga jala, wala jwa venga Glajana dome piti kari kari kari Bebe nere doni sen kari kari kari Bega rapu sili bega fari fari fari Nene dona MC tula bebe chari chari chari Ate nivo kele tuguni Ne tara auti seka kuna tuguni Nene toka flu duma sira suruni Abe boli koso tara mani duruni Hey! Mali rapu samaba ngabo ngagiri Tele mame rapu do hali egiri Mali rapu bina do minere ala uli Masa ala diri fanga diya fotze go uli Wari bega chaya kuna kuna Kuma bega chaya kuna kuna Panu bega chaya kuna Noma bema ibe taka bua kuna Hey! Utara congela, unara sura uga success ara. Yeah! Ibo one nebe denga, halisine ne debe ga mali rap mara. Hey! La joie debe nega, bibi na nega kobe nyana. Hey! Nere kera akter ye, wa mali rapu flim bana. Bew! Rapper international di Mali. John Depp se gafo nega rapu mani. Sanga oyentai aniwari. Menga jala, wala joa venga. Arriba! Questo era Iba One, era un rapper, come dicevo, internazionale, ma in realtà è maliano, e canta, rappa, un po' in francese, un po' nel dialetto locale, ma penso sia piuttosto famoso, è famoso solo in Mali o è riuscito a passare anche il confine e andare in altri paesi francofoni? Il ha scendé seulement au Mali o bien il ha passé... Iba One? Sì, lui è solo andato in America. Ah, ok. Sì. Quindi è veramente internazionale. Ma cosa pensi che sia così accattivante per un ragazzo dell'hip hop? Questo hip hop, sì, mi piace hip hop mariano, Iba One che Gaspi. Se qua chi te frapp? Iba One. De son moyen de faire musique, no? C'est quoi qui te frappe? Qu'est-ce qu'il y a qui te plaît de sa musique? Iba One, solo cantare. Les moyens dans lesquels il chante, les paroles qu'il dit, les rythmes de la musique. Que questo? Abbiamo guardato questo. Cioè, per te è il migliore che c'è. Sì, è il più bravo. Iba One. Ma per le cose che dice, per... Attualmente questo è il migliore in Mali. Ma secondo te perché ha avuto tanto successo? Perché piace così tanto? Io? Per te, secondo te? Sì, mi piace così tanto il tempo. Ma a ton avis, pourquoi il est devenu comme ça? Fameux, fameux. Quel fameux? Fameux? Mm-hmm. Il connaît très bien le rap. perché conosce molto bene questo genere di musica, lo padroneggia molto bene. E Gaspi invece? Sì, Gaspi è investibile. Mi piace anche quello. Ed è molto famoso anche molto Gaspi? Famoso, sì. Au fait, sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Mec, n'oublie pas qu'un chien ne sera jamais un lion. Rap Jiggy. Voilà, Maléo Menagi Kono, Deo Mso, Aude Nodo, Iwara Bora, Plenge Bana, Wara Ngapa. Ambition de teula, uriato raputore ya. Shit senye, je popi dala, we inu boduna, yeah, ne frala aula, yeah, friday grow la. Siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Rotte Sonore. Grazie mille per averci ascoltato, spero che abbiate capito il nostro francese e le nostre traduzioni. La musica è stata, spero, di vostro interesse, non lo so, speriamo, spero che continuate a seguirci, sempre sulla lista del capo. Ciao Sekou. Sekou, grazie mille di essere stato con noi e di averci portato un sacco di musica del Mali, ma anche americana a questo punto. Insomma, non solo in Italia, siamo stati colonizzati dagli americani. Anche in Mali, credevo che in Mali fosse arrivata più musica di lingua francese, ma invece no, non è così. È arrivata un sacco di musica anche americana, ma tramite la radio, tramite internet. Oui. Bon. Alla prossima domenica, allora. Ciao a tutti. Ciao.